Non posso credere a quante cose siano cambiate da quando ho lasciato lo studio del dottor Steinman. Fatico a riconoscere Rapture. Ho saputo che hanno persino ammassato della gente ad Apollo Square. Ho chiesto a Ryan come poteva fare certe cose a degli innocenti. Mi ha risposto, innocenti? Se non hanno scelto di difendere Rapture, hanno scelto di stare con Atlas e i suoi banditi. Quindi non ci sono innocenti. Ci sono gli eroi e ci sono i criminali. Che serata ho organizzato. Tutto pronto. Fiori, bottiglia di vino, anche due biglietti per il Tea Garden. Niente mette le pupe di buon umore come una serata nell'Arcadia. Ora devo solo passare da Thrifty Care a prendere un kit medico, per sicurezza. Dicono che questa non è la prima visita di Angelina al Tea Garden. Vieni qui. Pare che alcuni poveracci abbiano visto degli spettri. Spettri? Ryan mi ha detto che è un effetto collaterale di questo business dei plasmidi. I ricordi di una persona passano all'altra attraverso un campionamento genetico. Indiscrezioni, stravaganze, ribellione. E ora fantasmi sanguinanti. La vita della grande Rapture. Appena siamo arrivati qui, Masha ha iniziato a urlare: mamma, mamma, cos'è quello? Cos'è quello? Pensavo che le fosse venuto una specie di attacco e poi ho capito. Gli alberi! Non ne aveva mai visto uno prima. Pensava fossero dei mostri. Oh, Sammy, forse non saremmo mai dovuti venire in questo posto. In 10 anni di questa fogna ho imparato ad accettare standard di vita bassissimi. Ma persino in fondo a questo acquario un uomo ha le sue esigenze. Quel patetico trou de cul della Worley Winery ha cominciato ad allungare quel suo schifoso vino con l'acqua. Quando gliel'ho fatto notare, il tipo mi fa: oh, tranquillo, Pierre, è acqua distillata, poteva andare peggio. Avrei potuto prenderla direttamente dall'oceano. Si vestono con foglie e si fanno chiamare Saturnini. Ma per favore, bevono sangue umano intonando su con le fiamme, su con la nebbia! E credono di essere in contatto con gli antichi dei. Ah. Nient'altro che studentelli troppo cresciuti che ingollano calici di plasmidi chiamandoli ambrosia. It's all right. It's all right. This is a temporary problem. Plants die all the time. They just don't die all at once like this. But there's plenty of oxygen. I don't understand. No matter. I'll just deploy the Lazarus vector. I'm sorry, my plants. I'm sorry. I would never want to hurt you. What on earth did I do wrong? Oggi l'Arcadia è stata chiusa al pubblico non pagante. Quello mi assume per creare una foresta in fondo all'oceano e poi trasforma una passeggiata nel bosco in un lusso. Ryan mi ha chiesto: un contadino non dovrebbe poter vendere il suo cibo? Un vasaio non dovrebbe trarre profitto dai suoi vasi? Stavo per replicare, ma poi mi sono ricordata che era lui a firmare i miei assegni. C'è solo una cosa peggiore che essere ipocriti, ed è essere disoccupati. Sono una donna di scienza, ma anche una che non ha paura di fare qualche soldo. Ryan ha detto che se riesco a far fruttare l'Arcadia, mi intascherò parte dei profitti. E così ho pensato: paghiamo per l'ossigeno quando abbiamo degli alberi che operano la fotosintesi. Accidenti, potremmo persino vendere quello in eccesso al resto della città a prezzo minore degli altri. A Ryan piacerà. Fontaine si è gettato con le unghie e con i denti sul business dell'ossigeno. Chi dice che non si possono insegnare nuovi trucchi a un vecchio segugio? Questa vecchia botanica ha passato 4 anni a inventare modi di sfrondare alberi nel Pacifico per spaventare i giappi. E adesso siamo sul fondo dell'Atlantico a cercare di fare la stessa cosa al contrario. Adam. Questo è gin fatto in casa, moltiplicato la bomba atomica, moltiplicato Eva col serpente. Vediamo cosa posso fare. Ho sterminato alberi per 25 anni. A Berkeley negli anni 20, sui giappi a Iwo Jima. Ma non ne avevo mai resuscitato uno dalla tomba. Ce l'ho fatta, Becky. La mamma sta per creare il suo primo albero Frankenstein. Chiamerò la mia piccola creazione il vettore Lazarus. Forse farà resuscitare anche la mia carriera. Che gusto c'è ad essere un genio se l'unica gente in grado di apprezzarlo è una massa di cretini ricombinanti? Ho scoperto il vettore, almeno ne sono sicura al 99%. Mi serve solo un bocciolo di rosa gallica per confermare la mia analisi. Acqua distillata, un po' di clorofilla ed enzimi estratti da Apis mellifera. Ah, oh, va bene, tesorini. Bava di ape da miele. C'è qualcosa in questo maledetto posto che non venga rubato dai pagani? Tovaglioli di carta, calamai, amamelis, soluzioni di clorofilla. Persino i miei vecchi numeri del National Geographic. Immagino che ci stiano adornando i loro disgustosi santuari. Maledetti bastardi. Sì, sì, sì, lo so dell'isolamento, è assurdo. Dammi solo un minuto. I primi test su Lazarus sono molto promettenti. Se questa rosa gallica sboccia, allora per Dio saprò che siamo in affari. Fatto presto, l'isolamento. Va bene, vado. Ma qualcuno deve trovare il modo di tornare qui a controllare questi esemplari. Sono molto importanti. C'è stata una forte pressione per regolare il business dei plasmidi. Sono emersi problemi collaterali. Danni nervosi, cecità, follia, morte. Ma a che serve la nostra ideologia se non può essere testata? Il mercato non reagisce come un bambino, strillando al minimo segno di scontento. Il mercato è paziente. E anche noi dobbiamo esserlo. Non credo in nessun Dio, in nessun uomo invisibile nei cieli. Ma c'è qualcosa più potente di ognuno di noi. Una combinazione dei nostri sforzi. Una grande catena dell'industria che ci unisce. Ma è solo quando lottiamo per i nostri interessi che la catena trascina la società nella direzione giusta. La catena è troppo potente e misteriosa perché la guidi un governo. Chiunque vi dica il contrario, vi tiene una mano in tasca o una pistola puntata sul collo. Le bambine con i loro lunghissimi aghi, le loro canzoncine stonate, il loro macabro compito, i loro mostruosi padri frankensteiniani. Ma tutti noi abbiamo posato la mano sulla grande catena dello sforzo. C'è sopra la mia mano, c'è sopra quella di Fontaine. Tutti noi tiriamo e siamo tirati da essa. Sì, queste bambine sono un abominio, ma non c'era solo la mia mano sulla catena che le ha create. No, le loro piccole dita erano vicino alle mie. Gregory, non venire a lamentarti con me delle forze del mercato e non aspettarti che punisca i cittadini per scarsa iniziativa. Se non ti va quello che sta facendo Fontaine, beh, ti consiglio di trovare il modo di offrire un prodotto migliore. Ricordo a tutti i cittadini che ora le riunioni pubbliche superiori a 4 persone richiedono un permesso di raduno. I permessi di raduno si possono ottenere il martedì dalle 9 alle 11.30 al banco permessi dell'amministrazione centrale. Dottor Suchong, sono francamente scioccato dalla sua proposta. Se dovessimo modificare la struttura dei nostri plasmidi commerciali come lei propone, rendendo gli utenti vulnerabili alle suggestioni attraverso l'uso di feromoni, non dovremmo essere in grado di controllare efficacemente le azioni dei cittadini di Rapture. La libertà rappresenta il fondamento di questa città. Il solo pensiero di sacrificarla è aberrante. Tuttavia, ci troviamo in tempi di guerra. Se Atlas e i suoi banditi riusciranno, non ci tratteranno come schiavi. Che ne sarà, quindi, della libertà? A mali estremi, estremi rimedi. Julie, mia cara, io sto cercando di gestire un'impresa. Vuoi passare ore con le mie api da miele? Bene, dovrò iniziare a farti pagare qualcosa per il piacere. Se esco un'altra volta e ti ritrovo a ciondolarti tra i miei alveari, giuro che prendo il fucile. Quanto alla tua domanda, sì, i miei giorni alla scuola di apicoltura sono lontani, ma mi sembra di ricordare qualcosa di quell'enzima di cui continui a blaterare. L'Adam si comporta come un tumore benigno. Distrugge le cellule originali e le sostituisce con altre instabili. Sebbene questa instabilità sia alla base delle sue eccezionali proprietà, viene provocato un danno estetico e cerebrale. Per rimanere sulla cresta dell'onda, però, ci vuole sempre più Adam. Se da un punto di vista medico si tratta di un evento catastrofico, dal punto di vista degli affari, Fontaine vede delle possibilità di successo. La procedura di moltiplicazione funziona. Le lumache da sole non potevano fornire abbastanza Adam per un lavoro serio. Ma combinate con l'ospite, allora sì che si ragiona. La lumaca viene alloggiata nella parete dello stomaco dell'ospite. E dopo che questo si nutre, induciamo il rigurgito. Così otteniamo una quantità di Adam 20-30 volte superiore. Il problema adesso è la mancanza di ospiti. Fontaine dice, pazienta Tenenbaum, presto aprirà la prima casa per le sorelline. E allora il problema sarà risolto. Che cosa rende una persona come me? Osservo geni tutto il giorno e mai che abbia trovato traccia della colpa. Potrei biasimare i nazisti, ma in realtà nei mostri di Auschwitz non ho trovato torturatori, ma spiriti affini. Le bambine che ho brutalizzato mi hanno risvegliato qualcosa dentro. Qualcosa che per molti è bello e naturale, ma in me è un abominio. Il mio istinto materno. Una delle bambine è venuta a sedersi in braccio a me. L'ho spinta via urlando, stammi lontana! Vedevo l'Adam colarle dall'angolo della bocca, denso e verde, i capelli luridi appiccicati al viso, gli abiti sporchi, quello sguardo perso negli occhi. E allora ho provato questo odio, come mai l'avevo provato prima, nel petto, una furia amara e bruciante. Riuscivo a malapena a respirare. E di colpo ho capito che non era quella bambina che odiavo. Le bambine devono essere funzionali e produrre Adam efficacemente. Avevo sperato che potessimo metterle in stato vegetativo in modo che fossero più malleabili. Mi sento a disagio quando mi circondano. Anche con quei cosi impiantati nella pancia, sono pur sempre bambine. Giocano, cantano. A volte mi guardano e non la smettono più. A volte sorridono. All citizens are reminded that public gatherings of more than 4 people now require a permit. Gathering permits can be obtained from 9 to 10 a.m. at the permitting counter in central administration. L'ufficio della Langford, brulica di lavori in pelle. Tornarci adesso sarà un bel casino. Santo cielo, ma quanto ci mette quel dannato vettore a cuocere? Ben fatto, ragazzo. Respira a fondo e goditela. E poi dirigiti a Rolling Hills e prendi la batisfera. La prossima fermata è la casa di Ryan. È l'ora del sangue. Questa maledetta città è costruita in modo da non permettere a nessuno di uscire in caso di un'emergenza del genere. O rimettiamo a posto quegli alberi, oppure è la fine. Hai recuperato tutti i componenti del vettore Lazarus? In questo caso dovresti andare alla stazione di creazione. Poi torna al laboratorio della Langford e versa la pozione stregata nel nebulizzatore. Dovrebbe eliminare la nebbia all'istante. Fabbrica quell'affare, per cortesia. L'aria si fa sempre più rarefatta qui sotto. Qualcosa non va. Ho bisogno che tu mi ascolti. Non so un tubo di botanica, ma credo che Ryan abbia appena ucciso l'Arcadia. Ho messo qualcosa di schifoso nell'aria. Siamo in fondo all'oceano. Tutto l'ossigeno viene dagli alberi. Niente alberi, niente ossigeno. Fammi riflettere un secondo. Moira. Patrick. Questo è tipico di Ryan. Aspetta che siamo quasi fuori e poi tira i fili. Troveremo quel bastardo. Giuro che lo troveremo e gli strapperemo il cuore. Oh Cristo, ecco che arrivano. La donna di Ryan nell'Arcadia è una vecchia di nome Langford. È a posto, ma non tanto da rifiutare un lavoro sporco per qualche dollaro. Se è ancora viva, sono certo che vorrà salvare i suoi alberi. In fondo, li ha piantati lei quei cosi. Ogni volta che avanziamo di un metro, Ryan sposta la linea di fondo campo nella direzione opposta. Che cos'è stato? È pronto il vettore? Che cosa aspetti? Premi quel cavolo di interruttore! Le Rolling Hills sono laggiù. E anche la stazione della batisfera. Quindi punta dritto su Ryan. L'Arcadia è vasta, ma in gran parte rurale. Se stai cercando qualcosa in particolare, fossi in te comincerei dal Farmer's Market. Raggiungi la batisfera a Rolling Hills. Ti porterà dritto nella tana del lupo. E allora faremo i conti una volta per tutte. Dal suono di quell'inventa intuisco che sei l'orgoglioso padre di un nuovissimo vettore Lazarus. Ora versa il vettore in un affare chiamato controllo centrale nebbia. Poi saremo a cavallo. Avrai sentito parlare di me, visto in giro il mio nome. Un tempo la politica mi interessava, ma è solo una scusa che gli uomini usano per ammazzarsi tra loro. Per me, io ho chiuso. Voglio solo tornare a vedere il sole. Prova quell'esemplare, per cortesia. E ti conviene sbrigarti, a meno che tu non abbia intenzione di farti crescere le branchie. L'interruttore! Premi quell'interruttore! Che cosa aspetti, ragazzo? Quelli di Ryan stanno arrivando! Blocca l'ingresso del laboratorio! Sei a metà strada. Non mollare l'acceleratore. I lavori in pelle di Ryan non sono tipi compiacenti. Perché indossano quelle maschere? Forse c'è una parte di loro che ricorda com'erano una volta, come apparivano, e si vergognano. Io ho spedito un pacchettino con la posta pneumatica. Non è molto, ma è meglio di niente. Hai chiuso quella porta? Bene, dovrebbe darci un po' di tempo. Ryan ti ha preso di mira. Senza dubbio ti manderà compagnia. Meglio che torni all'ingresso del laboratorio e lo blocchi. Potrebbe essere l'unico modo di tenere fuori i ricombinanti. Senti quanto gorgoglia e stride quella roba. Ma quanto ci mette? Come mai sei così restio ai tradizionali metodi di separazione di un uomo dalla sua anima? Non sei della CIA. Appartieni ad Atlas. L'unico scarafaggio che non riesco ad eliminare. Ma non preoccuparti. Presto troverò il veleno giusto. In superficie, una volta ho comprato una foresta. I parassiti affermarono che la terra apparteneva a Dio e pretesero che destinassi l'area a parco pubblico. Perché? Perché la plebaglia potesse starsene stravaccata sotto le fronde facendo finta che quello fosse il meritato paradiso. Quando il congresso decise di nazionalizzare la mia foresta, la incendiai. Non è stato Dio a piantare i semi di questa Arcadia. Sono stato io. Sono venuto in questo luogo per costruire l'impossibile. Tu sei venuto qui per rubare ciò che non avresti mai saputo costruire. Un unno sbalordito alle porte di Roma. Persino l'aria che respiri viene dal mio conto. Respira a fondo, così più tardi potresti ricordarne il sapore. Julie, we made a business deal, you and I, did we not? Money changed hands. Let me read to you from the agreement. Section 3, subsection 4. Ryan Corp maintains exclusive rights to the creation, use, and exploitation of the Lazarus Vector. I own the Vector now. It is no longer yours to truck with. Ownership is civilization, Julie. Without it, we're back in the swamp. Sembra che la morte di Julie non sia stata una lezione abbastanza chiara per te. Forse questa basterà. Non opporre resistenza. Presto finirai l'ossigeno. E allora sarà proprio come addormentarsi. Avanti, su, avanti! Uccidiamo il parassita! Let's do it! Let's do it! Sistemateli! Sistemateli per bene! E il veleno! Uccidiamolo! Il veleno! Elimina il veleno! Tu hai portato il veleno! Tu muori! Uccidiamolo! Ha avvelenato gli alberi! Sono quei fottuti fanatici! Il Saturnino! Siamo morti! Questo è suolo sacro! Puzzi di sangue di Saturnino! E quanto ci vuole? Tu sei il veleno! È quello che ha portato il veleno! Annientiamo il parassita! Elimina il veleno! La tua presenza è una profanazione di questo luogo! Parassita! Morirai qui e adesso! Il veleno! Elimina il veleno! Ora! Questa era casa nostra! Questo posto è nostro! Nostro! Il Saturnino! Via, via! Sei sporco! Sudicio! Amico, ti sei messo con le persone sbagliate. Tossico, tossico, sporco! Prendi alla leggera il Saturnino? Livelli di ossigeno normalizzati. Tutte le porte della paratia sono accessibili. Oxygen levels critical. Lockdown initiated. All bulkhead doors are now sealed. Thank you. Livelli di ossigeno critici. Isolamento iniziato. Tutte le porte della paratia sono sigillate. What are you waiting for, silly? It's beautiful! Oh, sugar, I'm spliced up in ways you never dreamed of. Che stai aspettando, stupido? È una meraviglia. Oh, dolcezza, sono ricombinate in un modo che nemmeno te la immagini. Vieni qui. Vieni qui. Oh, Cristo, c'è qualcuno lì? I ricombinanti sono ovunque. Puoi aiutarmi? Puoi aiutarmi? Aspetta, da questa parte. Salve, bellezza. Da questa parte. Oddio, qualcuno mi aiuti. È quello che ha portato il veleno. È il veleno, uccidiamolo, ora. Hai avvelenato la nostra terra. Pronti, pronti. Il Saturnino, via, via. Sono quei fottuti fanatici. Stanno arrivando. Rovinerai tutto. Tutto! A noi Saturnini non piacciono gli stranieri. Tu sei il veleno! I miei alberi. Non sei stato tu, vero? No. Ryan. Devi avergli proprio dato noia. Credo ci sia un modo per salvare gli alberi. Un vettore genetico che... Ah, ma guarda chi parlo. Recupereresti per me un esemplare di rosa gallica. Cerca nella grotta. Io devo proseguire il lavoro finché c'è tempo. Sì, è perfetta, perfetta. Vieni nel mio ufficio. Adesso ti faccio entrare. Credo di avere proprio quello che serve per far tornare verde questa foresta. Ho violato il sistema di sicurezza in questo locale. Così quelle torrette sono innocue. Sali nel mio ufficio. Che gusto c'è ad essere un genio se l'unica gente in grado di apprezzarlo è una massa di cretini ricombinanti? Ho scoperto il vettore. Almeno ne sono sicura al 99%. Mi serve solo un bocciolo di rosa gallica per confermare la mia analisi. Acqua distillata, un po' di clorofilla ed enzimi estratti da Apis mellifera. Ah, va bene, tesorini. Bava di ape da miele. Mr. Ryan, wait! No, please! Mr. Ryan! Oh! Please! Avete preso la clorofilla? Che altro volete, Saturnini? Lasciatemi in pace o vi scateno contro le mie torrette! Hai recuperato la rosa gallica? Beh, cosa aspetti? Un invito formale? Mandamela attraverso il tubo pneumatico. Julie, avevamo un accordo tu e io. Non è così? C'è stato un passaggio di denaro? Lascia che ti legga dal contratto. Sezione 3, sotto sezione 4. Mr. Ryan. La Ryan Industries mantiene i diritti esclusivi sulla creazione, l'utilizzo e lo sfruttamento del vettore Lazarus. Adesso il vettore è mio. Non Mister puoi Ryan. Farci niente. Aspetti, la non la prego. È civiltà. Senza quella, Mister Ryan. Nelle paludi. No. Oh, sugar, I'm spliced up in ways you never dreamed of. Get over here.